X24 di Giovanni Minoli. La lunga attesa è finita, il dado quasi tratto. Il 29 marzo la Gran Bretagna comunicherà ai partner la sua volontà di lasciare l'Unione Europea. In moto, a partire da quel momento, 2 anni di negoziati per completare il divorzio di Londra da Bruxelles. Scozia e Irlanda del Nord, entrambe pro Remain, tornano a farsi sentire. La prima continuando a minacciare un nuovo referendum per l'indipendenza. È il momento di chiedersi quo vadis, dove vai, dice il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, presentando un libro bianco sul futuro di un'unione di 7 senza la Gran Bretagna. Buongiorno, bentornati su Mix24. Oggi dunque, 29 marzo, Londra attiva l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che dà il via alla procedura di uscita dall'Unione Europea e quindi cambieranno certamente molte cose. Lucio Caracciolo, buongiorno, direttore di Limes. L'ultimo numero di Limes, della vostra rivista, è intitolato Chi comanda il mondo? La Brexit è l'inizio di questo cambiamento degli equilibri del mondo? È già cominciato da parecchio tempo, ma certamente è un primo passo verso la disintegrazione dell'Unione Europea, cui secondo me seguiranno delle reintegrazioni, cioè dei gruppi di paesi all'interno dell'Unione Europea che si uniranno fra loro per escludere altri. Ecco, ma nel vostro titolo mi ha colpito il fatto che non c'è il punto interrogativo, vuol dire che avete la risposta? Certamente, la risposta è nessuno. Nel senso che esiste un paese che possiamo chiamare il numero uno, gli Stati Uniti d'America, ma che è lungi dal comandare il mondo e che comunque appare in una fase, chiamiamola, di introversione. Infatti gli Stati Uniti di Obama, che in qualche modo hanno garantito l'equilibrio squilibrato fino ad ora, però sono in costante disimpegno. Ecco, siamo sicuri che Trump continuerà a ritirarsi verso un isolazionismo ancora più marcato? A Trump interessa soprattutto mantenere le promesse che ha dato al suo elettorato, cioè ai lavoratori bianchi della classe media delusa. Del resto del mondo gliene importa poco e probabilmente per quel poco che gliene importa deve fare i conti con un sistema americano molto diviso, insomma il Congresso non lo appoggia, gli apparati nemmeno, e quindi abbiamo un conflitto all'interno degli Stati molto Uniti forte. Che probabilmente avrà delle ripercussioni anche da noi. Ecco, ma se fosse così, per garantire in qualche modo un ruolo, una garantire l'impero, resta il dollaro solo? Resta il dollaro, ma restano soprattutto le forze armate. Pensa alla strapotenza militare che hanno gli Stati Uniti, soprattutto nei mari, non andrebbero da nessuna parte, ecco, nemmeno il dollaro. Ma c'è il problema della bomba atomica della Corea del Nord. Il segretario di Stato americano ha detto che la pazienza è finita. Davvero c'è, secondo lei, una possibilità che gli Stati Uniti bombardino la Corea del Nord? Non si può affatto escludere, perché immaginare che gli Stati Uniti accettino che un paese canaglia abbia dei missili con testata nucleare che possono colpirlo nel giro di 4-8 anni, come si dice oggi, è inimmaginabile. Ecco, infatti questi missili nordcoreani potrebbero arrivare in Giappone sicuramente, forse alla costa degli Stati Uniti anche, no? Si parla di California entro 4-8 anni. Voi su Limes avete elencato 4 sfidanti degli Stati Uniti. Partiamo dalla Cina. Ci sono 2 sfide, quella economica e quella militare. Chi vince e chi perde, secondo lei, e perché? Il modello economico cinese, come anche quello politico, è arrivato a un punto limite. O la Cina è in grado di riorientare la sua economia e soprattutto di dare una maggiore trasparenza al suo sistema politico, oppure non va da nessuna parte e inizia un problema molto serio per i cinesi, ma anche per noi, perché la Cina è il motore in questo momento più di tutto, dello sviluppo mondiale. Certo, ma la Cina poi in più ha un problema demografico, una demografia in espansione, 1 miliardo di persone. Questo anche però può far vincere, perché è proprio un'occupazione fisica. Sono sì 1.400.000.000, ma soprattutto sono molto vecchi e, come alcuni dicevano già tempo fa, diventeranno probabilmente prima vecchi e poi ricchi. Per certi aspetti la Cina resta un paese in via di sviluppo con un reddito medio paragonabile a un paese non ricco europeo. Senta, ma dal punto di vista strategico, Caracciolo, la superiorità di divisione oggi sembra essere nettamente quella della Russia di Putin. Qual è secondo lei l'obiettivo di Putin nel 2017? Dire che la Russia si disgreghi, perché al di là della sua retorica e anche della sua abilità tattica, la Russia resta un paese molto fragile, con una demografia molto debole e soprattutto un'economia che in questo momento soffre non solo per le sanzioni. Insomma, in Russia si continua a produrre materie prime e quasi nient'altro. Senta, però l'Europa è destinata in qualche modo a entrare nell'orbita russa o no? No, assolutamente no. Assolutamente? Perché? Perché non glielo permetteranno né gli americani né probabilmente gli stessi europei. Però il disinteresse degli americani per l'Europa potrebbero... i vuoti si riempiono anche in politica. I vuoti si riempiono, ma nel momento in cui vedessero che più che l'Europa la Germania si avvicinasse alla Russia, non si preoccupi, gli americani interverranno in qualche modo, già lo fanno. Senta, Caracciolo, intanto l'ONU è ancora o non è più e non potrà mai più essere una stanza di compensazione delle crisi mondiali, se mai lo è stata? Appunto, non lo è mai stato. Ah. Senta, un tempo si facevano le guerre per il petrolio, adesso l'oro nero è in calo, gli Stati Uniti sono ormai all'autosufficienza energetica, anzi diventano perfino esportatori di gas. Perché cosa si possono fare le prossime guerre? Per la gloria, per il prestigio e naturalmente per i dati, perché in questo momento la partita economica ma anche politica più importante è il controllo dei dati. Ci sono delle grandi agenzie, pensiamo a Facebook, ad Amazon, a Google, che esprimono una potenza superiore a quella di molti stati. Senta, Caracciolo, il vostro approccio sull'IMES è un approccio molto concreto, realista, però esistono forze anche che sfuggono alla razionalità, mi riferisco ai movimenti religiosi. E Stanis si chiedeva quante armate ha il Papa, no? Con disprezzo. Ma secondo lei Papa Francesco su questo scenario ha un ruolo oppure no? Per la verità noi siamo molto attenti ai fattori irrazionali o, se preferisce, anche spirituali. Papa Francesco ha un ruolo sicuramente, ma è un ruolo di indirizzo, di monito, certo, con il vantaggio di non avere responsabilità, ciò che gli permette di essere più libero. Ma anche il fatto di appartenere a un mondo nuovo in qualche modo. È lo sguardo argentino, sì, su noi vecchi europei. Si è dimostrato particolarmente caustico quando ci ha paragonato a una nonna sterile. Esatto. Senta, voi dite Trump è il dito, ma la luna è l'America. L'America di Trump che America è? È un'America che da un certo punto di vista sta bene perché continua a crescere 3-3,5%, ma da un altro punto di vista sta male, penso all'identità. Trump ha vinto perché molti americani bianchi pensano di avere perso il loro ruolo storico di razza padrona a favore dell'immigrazione ispanica. Ecco, ma volenti o nolenti, secondo lei mi pare di capire che forse il comando toccherà ancora agli americani oppure no? Loro eserciteranno questo comando, ma evidentemente non possono comandare un mondo di 7,5 miliardi di persone in cui loro sono 320 milioni. Certo. La demografia parla chiaro. Cioè la demografia è l'arma nuova poi in qualche modo che determina equilibri nuovi. E certamente, perché aumenta il tasso di anarchia e aumenta le differenze fra i vari paesi. Non a caso il continente che cresce di più sotto questo profilo, l'Africa, è anche il paese in cui ci sono meno stati che funzionano veramente. Grazie Caracciolo. Grazie a voi. Ricordo chi comanda l'ultimo numero di Limes, chi comanda il mondo. Ecco Mario, una battuta. Pensi che l'America continuerà a guidare il mondo? No, non come prima. Non è possibile. La demografia è contro. È la demografia quello che per diceva, me. Quello che sì, diceva sì, Caracciolo. Penso la stessa cosa. Tu, Pietrangelo, pensi che l'Iran possa risolvere il problema in qualche modo affermandosi come forza regionale, oppure il divide t'impera che c'è stato fino adesso potrebbe continuare? Può risolvere il problema in un solo modo, facendosi forte del vantaggio, cioè di avere una società viva, attiva, presente nei mercati e intenzionata a prendersi il futuro. Se, Alberto Negri, ex inviato speciale del Sole 24 Ore, autore del libro Il musulmano errante, storia degli alawiti e dei misteri del Medio Oriente. Buongiorno Alberto. Ecco, proprio oggi il presidente iraniano Rouhani è in visita a Mosca. È il primo incontro bilaterale tra Russia e Iran. Proprio in un'ottica, in questa ottica di stamattina del chi comanda il mondo, cosa significa questo incontro per te? Pronto? Alberto Negri? Pronto? Non c'è Alberto Negri? Al telefono? Non abbiamo Alberto Negri. È sparito. Beh, Alberto. È sparito. torna, lo ritroveranno. Lo ritroveranno. Ecco, se, allora, Pietrangelo, intanto tu che sei esperto, mi dici che cosa può significare questo incontro nell'ottica di chi comanda il mondo, l'incontro tra appunto tra Putin e Rouhani. Allora, significa una cosa, che il grande gioco, cioè il meccanismo degli equilibri internazionali, si è rinnovato, la centralità si è spostata e ovviamente la Russia di Vladimir Putin, per quanto, come ricordava prima Caracciolo, deve sopportare delle crisi strutturali, è comunque il soggetto fondamentale, l'interlocutore non solo dell'Europa. Io credo che l'Europa dovrà necessariamente rispecchiarsi nella nuova presenza della Russia, certo, intanto perché fornisce l'energia, intanto perché ha anche la capacità di aggregazione continentale, ma è determinante in quello che è il ritorno della via della seta. Ecco, abbiamo ritrovato Alberto Negri. Ciao Alberto. Ecco, buongiorno a voi. Questo incontro, lo stavamo parlando con Pietrangelo, di questo incontro tra Rouhani e Putin a Mosca, che è il primo incontro bilaterale. Che cosa significa dal tuo punto di vista questo incontro? Beh, innanzitutto significa per Rouhani una bella spinta in vista delle elezioni presidenziali di maggio. Esatto, sì. Che è la prima, in un certo senso Putin diventa lui in un certo senso anche un grande elettore dell'ala moderata degli Ayatollah. Poi rafforza naturalmente la cooperazione strategica con l'Iran in Siria e si trascina dietro anche la Turchia. Infatti, questo rapporto è bilaterale, è trilaterale. Ma io volevo dire, in questa strategia di Putin, che in questi mesi di vacanza, diciamo, degli Stati Uniti, la presenza degli Stati Uniti in Medio Oriente, il Cremlino ha dato l'idea di aver occupato questo vuoto. Cambia qualcosa secondo te con l'amministrazione di Trump oppure continua questa avanzata di Putin? Caracciolo dice, insomma, non sopravvalutiamola. Ma sai, nel passaggio tra un mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti a uno multipolare è avvenuto un ribaltamento strategico, certo, fondamentale. La Turchia, per, come dire, attutire la sconfitta in Siria, ha dovuto allearsi con i suoi avversari, ma... cioè con la Russia e con l'Iran, ecco, ma un si paese membro della NATO. Si può dire che Putin è stato non abbattuto ma rafforzato dalle sanzioni? Direi che Putin è stato rafforzato soprattutto dagli errori in serie dell'Occidente. Perché la capacità tattica oramai di Putin è sotto gli occhi di tutti, però diceva giustamente Caracciolo, la Russia è un paese che ha un sacco di problemi e che ha un'economia anche fragile, quindi grande capacità tattica, ma questa forza poi alla fine su cosa si basa? Le cifre sono decisamente non dalla parte di Mosca. Basti pensare alla spesa militare americana, che oltre 500 miliardi di dollari, e quella russa a 66, quasi 10 volte di meno. Quindi, chiaro che la Russia deve spendere meglio di quanto non spendano gli Stati Uniti. E tu dicevi, l'incontro di Rouhani con Putin in qualche modo trasforma Putin in un grande elettore di Rouhani, ma chi vince il 19 maggio in Iran? Ma il favorito è ancora Rouhani, certamente. All'interno delle gerarchie iraniane, come al solito, ci sono molte lotte interne e l'Iran non è certamente una democrazia, ma è un paese policentrico con tanti poteri che si incontrano e che poi si scontrano e poi magari trovano delle convergenze su un candidato. Ecco, ma se fosse Rouhani il candidato su cui si fanno le convergenze, le conseguenze sulla politica estera quali possono essere? Ma io credo che comunque l'Iran stia conducendo la politica estera che tende a fare dell'antica Persia la vera potenza regionale del Medio Oriente. Tanto è vero che Netanyahu, prima che Rouhani arrivasse a Mosca, è andato lui da Putin a chiedere qualche aiuto per contenere l'influenza di Teheran. Ecco, ma l'accordo del trattato tra Stati Uniti e Iran reggerà anche con Trump oppure no? Beh, diciamo che è stato un capolavoro iraniano. Pensate che l'Iran in parte ha rinunciato al nucleare nel luglio del 2015 e il 30 settembre ha trovato un alleato nucleare, cioè Mosca, a difendere i suoi interessi in Medio Oriente. E quindi tu dici che si può parlare di un asse che si sta consolidando tra Iran, Turchia e Russia? Beh, direi di sì, soprattutto tra gli interessi convergenti che ci sono tra la Russia e l'Iran, e poi la Turchia deve fare a buon viso a cattivo gioco. Ha perso la guerra in Siria, dall'altra parte in piena frizione con l'Europa e con l'Occidente, e quindi ha spostato il suo asse a est per un paese membro della NATO. Signori, a me pare veramente rivolgimento epocale. Veramente epocale. Ecco, per chiudere, nel tuo libro Il musulmano errante parli dei misteri del Medio Oriente, che sono sempre più fitti? Direi che sono sempre più fitti, ma si stanno in qualche modo dipanando. In che senso? Nel senso che al potere, per esempio in Siria, ci sono gli alawiti, una minoranza, e si sta scoprendo che l'Islam ha molti volti diversi. Forse quella direzione univoca che pensavamo sta acquisendo nuove tonalità, nuove sfumature. Il prossimo Medio Oriente sarà molto più complesso di quello che abbiamo visto, addirittura. Grazie a Negri. Mario, tu pensi che il tramonto dell'Occidente, come dice qualcuno, è davvero alle porte? Mi pare già fatto. Già fatto? Sì. Tu, Pietrangelo? Te lo racconto con un esempio. Ieri in metropolitana, ieri sera, osservavo un papà e la sua bimba, 6 anni, lei, il papà, tutte e due cinesi. La bimba passava il tempo a leggere ad alta voce, all'età di 6 anni, tutte le fermate, e poi a un certo punto ha cominciato a elencare i personaggi del Don Chisciotte. Sono rimasto atterrito. Lo credo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. La canzone, Pietrangelo. Eccola. Vecchio platano fatto allegro dalla primavera, se ne scesse oggi una ragazza vestita di nuvole, onde blu e gialle, per correre lungo i vagoni della metropolitana e spiegare a tutti Platone, l'imitazione di un'imitazione, e arrivare così alla vita vera. Allora, ha chiamato chi? Dico io. Ha voluto questa canzone da dedicare a me con un messaggio. Tu lo sai, e infatti io lo so. Se questo è un uso privato di un mezzo pubblico, che dici, Mario? E vabbè, ogni tanto. Ogni tanto si può, va bene, ok. Concesso. Mario, vai poi con la bomba. Paga, quindi. Allora, ma io volevo sottoporvi più che altro, questo è Todd Snyder. La scelta della regia non è. Questa guerra continua. Sì, detto, perché abbiamo gusti molto diversi. Però è buono questo, senti. Ma guarda che hai il diritto di scegliere se vuoi, eh. Sì, ma ogni tanto io sono. Ah, però poi sottolinei, però sottolinei. Sì, va no, bene, perché okay. Devono crescere. No, perché la tua lista, la tua playlist ci tiene. Va ci bene. Tengo. Ok. Senti, no, io voglio fare. Vabbè, insomma. Ma perché assumere? La faccio breve. Ma perché assumere altri 80.000 persone nella pubblica amministrazione italiana? Cioè, abbiamo il record di spesa pubblica. Mandiamoli a giocare il calcetto. 800 miliardi. Cioè, ma che cosa sta succedendo? Mi sa che si vota. Ho questa impressione. Ho questa leggera impressione. Cioè, il paese ridotto a pensionificio anticipato con l'APE magari, stipendietto pubblico, assegnetto di disoccupazione per appunto disoccupati cronici, cioè è questo il disegno dell'Italia? E io mi sto interrogando, cioè noi dobbiamo far crescere i figli qui? Ma questo non lo so. Io leggo i giornali stamattina, francamente ho letto Il Sole. C'è da farsi venire i brividi di fronte a un piano del genere. Cioè, è l'Italia, questo è il disegno del futuro del paese. Altrove stanno succedendo cose incredibili, rivolgimenti nel trolley di Renzi, perché è lui di fatto che governa, l'avrei detto per un altro ovviamente, c'è questo. Vabbè. Va bene. Anzi, pensione anticipata e assegno di disoccupazione. Disoccupazione e poi sì, allora Grillo, vediamo quando tornerà lui. Voto Grillo, allora abbiate pazienza. Vabbè, quello che voti tu è un affare tuo. Salamino. Il PP va val bene un tè. Il Partito Popolare Europeo è a Malta, democristiani di tutta Europa sono a congresso, e a meno di un anno dalle elezioni politiche, come dice Mario, forse anche subito, a pochi mesi però dalla sentenza di Strasburgo e dunque prossimo alla meritata riabilitazione, Silvio Berlusconi canta pieno di speranza con Checco Zalone. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, questo era Angela. Io dico te. Oh, Berlusconi. Berlusconi punta ad Angela. Berlusconi ha deciso di dimenticare. Cosa deve dimenticare? E deve dimenticare le risatine sciocchine di Angela Merkel quando, in coppia con Nicolas Sarkozy, faceva di Silvio Berlusconi il passatempo del mondo intero. Poi ricordate il famoso apprezzamento sulla circonferenza delle terga della suddetta Angela? Vabbè. Non ci fu, Mario. Non lo so, io non ho mai sentito. E poi è quindi, stato dimenticato anche smentito. Tutto il carico di rancore contro l'onnipotente tedesca di Germania, padrona dell'euro, quella valuta a cui Berlusconi vuole affiancare adesso una moneta parallela per parare i guai dell'Italia. Il PPE dunque vale bene un tè. I popolari di tutta Europa sono al congresso, andranno a prenderla a Malta. Chi ci sarà? Ci sarà anche Pier Ferdinando Casini. Alla testa di una innumerevole delegazione di casiniani italiani, nell'ordine di milioni, milioni, milioni di casiniani arrivati da ogni dove, e naturalmente ci sarà anche Angelino Alfano. Angelino Alfano, che arriverà alla testa di miliardi, miliardi e miliardi di alfaniani giunti perfino da Canicattì, da Sommatino, da Riesi e però, Giovanni, non da Raffadali, perché a Raffadali sono tutti giustamente lealisti di Totò Cuffaro. Il cavaliere invece... tornato prepotente sulla scena, come racconta oggi Balzac, che sempre si firma con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa, si porta una claque di sole 50 persone e punta in alto. 50 che stanno lì pronti ad applaudirlo e ha incaricato il suo uomo a Lavana, che poi sarebbe Strasburgo, cioè Antonio Tajani, il presidente del Parlamento Europeo, di procurargli un incontro con la leader dell'establishment europeo, un faccia a faccia dunque col cancelliere tedesco Angela Merkel per un tè o un caffè o un sambitter, quindi una bella fotografia per restituire l'agognata ribalta internazionale dopo anni e anni di purgatorio, tutto di processi, di bunga bunga, impedimenti di vario genere, servizi sociali. Poi che è successo? Che Matteo Salvini e Giorgia Meloni lo reclamano invece nell'alleanza populista, vogliono stare con lui. Ma Berlusconi cosa dice? Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! Ostenta indifferenza, anzi lascia intendere che solo grazie a lui non ci sarà sovranismo, non ci sarà populismo, ma... il pangermanesimo! Altro che Trump Truppen! E sempre solo sarà, sempre solo sarà... il Silvio Sissi. Bella gara. Chiaro, vai Mario con la tua bolla. Sì, vai. Per Gemma. Beh. Tanto va bene perché è Given to Fly e noi parliamo di voli. Ho letto che Delta e Korean Airlines si rafforzano. Uno dice, ma ti occupi dei voli nel Pacifico, in America, che cosa vorrà mai dire? Ovviamente vuol dire molto, perché abbiamo due compagnie che si mettono, rafforzano la cooperazione su, pensate, 370 destinazioni. E sono due giganti. E poi abbiamo uno scenario lillipuziano, mi spiace, ma è quello italiano, di Alitalia, dove il 5 di aprile, cioè qualche giorno, si sciopera. Sai che grande novità. E dove ma, si... Mario stamattina è proprio quasi scusa. Senza voce addirittura. No, ma sono steso, eppure questa dichiarazione, questo endorsement per i 5 Stelle dovrebbe darti allegria. No, vabbè, scusa, i consumatori hanno una vecchia regola che è quella di scegliere sempre l'originale. Se c'è qualcuno che copia, uno sceglie l'originale. Cioè? Renzi sta inseguendo proprio il grillismo in una maniera canzoniere, non uso il termine tecnico. Stringiti a me, abbandonati a me, sicura, io non ti mancherò e tu non mi mancherai, troveremo la verità segreta. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms per chi indovinasse, telefonate o mandate l'sms, pubblicità. Mix 24. Long long time ago I can still remember how that music used to make me smile. Continuiamo il racconto della roccambolesca storia di Raffaele Minichiello, il marine nato in Irpinia che combatte come Rambo in Vietnam. Il 31 ottobre del 69 è protagonista del più lungo dirottamento della storia dell'aviazione civile, oltre 19 ore da Los Angeles a Roma per un totale di quasi 11.000 km in aria, ed è il primo dirottamento aereo. Ma cosa lo ha portato a questo gesto folle e temerario? Mancano ancora 2 anni al suo congedo. Una mattina di marzo del 69 Raffaele passa allo sportello della Banca dei Marine e si accorge che dal suo conto mancano $200 su un totale degli 800 versati mentre era al fronte. So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Raffaele non ci sta. Ha perso le ricevute nella giungla, ma l'errore nell'amministrazione. È una questione di principio. Non ci sta, infuriato, si rivolge a un ufficiale che lo prende a male parole per le sue origini italiane, dandogli del mafioso. Hanno detto 600, 600 sono. Per Raffaele è un affronto, un colonnello al servizio del paese per cui ha lottato non può trattarlo così. Pensa allora una vendetta. Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. Entrato furtivamente nello spaccio, riempie la borsa di cose per un valore che lui immagina di $200 per pareggiare il conto. Stordito dall'alcol, si addormenta sul pavimento con la borsa accanto. La bravata gli costa 2 giorni in una prigione civile a San Diego e la cosa sembra finire lì, visto che Raffaele è un marine decorato con uno stato di servizio eccellente. Ma le cose si mettono male. L'ufficiale col quale aveva protestato per i $200 mancanti vuole dare l'esempio, la vita militare e soprattutto ubbidienza. Raffaele sarà deferito alla corte marziale e il suo avvocato gli consiglia di dichiararsi colpevole, di non parlare dei $200 e di rimettersi alla clemenza della corte. È il 29 ottobre del 69, manca un giorno al processo. Raffaele ritira tutti i suoi risparmi, circa $460, va in un'armeria, compra una carabina Winchester semiautomatica 30 M1, un binocolo, cartucce e dei caricatori. Alle 19 alla stazione dei Pullman, dove compra un biglietto per Los Angeles. Raffaele ricorda il momento in cui decise, in cui prese questa decisione. Dopo che ho parlato con l'avvocato per l'ultima volta, quelle che lui mi aveva consigliato io non lo potevo accettare. Ho deciso che in qualche modo avrei dovuto andare via dagli Stati Uniti, come non lo sapevo. Poi ho cominciato a pensare, cosa faccio? Vado in Messico, però in Messico mi riposto, vado in Canada. Non era possibile. L'unica destinazione che mi sembrava più valida era l'Italia, però come arrivare in Italia? Dopo aver trascorso qualche ora in albergo, Raffaele decide di prendere il volo di notte proveniente da Kansas City, che parte all'1:30 del 31 ottobre con destinazione San Francisco. È un Boeing 797 della compagnia americana TVA. Sono trascorsi 15 minuti dal decollo e Raffaele prende il mitra dal borsone, trascinando Charlene Del Monico, una delle hostess, fino alla cabina di pilotaggio, tenendo sempre il fucile in mano ma mai puntandolo direttamente contro la nuca. Raffaele prende il comando, ordina all'equipaggio: si va a New York, altrimenti sparo. Il comandante, Donald Cook, gli spiega che si trova a bordo di un Boeing modificato per i viaggi brevi e che bisogna fare rifornimento per raggiungere New York. Raffaele, da quel momento, lei sarà famoso come il primo pirata dell'aria, ma come riuscì a superare i controlli con il fucile nel borsone? All'aeroporto di Los Angeles ho cercato in tutti i modi di passare inosservato. Ho fatto amicizia con delle hostess, tre hostess che ritornavano a casa. Facendo amicizia con loro sono riuscito a passare, anche se a quei tempi non c'erano i controlli come oggi. L'aereo fa un primo scalo per rifornimento a Denver, da dove Raffaele fa scendere tutti i passeggeri e tre hostess. A bordo con lui rimangono il comandante, il secondo, il tecnico di bordo e Tracy Coleman, la quarta hostess che decide di rimanere a bordo. Raffaele, so che lei sta cercando da anni di rintracciare Tracy sul web, ma non c'è ancora riuscito. Questa bella ragazza fece un po' da negoziatore tra lei e l'equipaggio. È vero che le insegnò a giocare a poker? Però poi aveva anche il timore di essere avvelenato quando beveva il caffè della tazza di Tracy, così? Sì, lei mi ha cercato di insegnarmi a giocare, perché noi abbiamo speso tanto tempo insieme. È stato veramente una donna straordinaria, una ragazza bellissima, ma proprio non fatta di bella fisicamente, ma bella però dentro, proprio una persona straordinaria. Non è che avevo paura che mi avvelenavano, ho paura che mi addormentavano. Questo è il problema. Durante il volo Raffaele sente alla radio l'appello disperato della madre, che gli dice di arrendersi. I federali, guidata da Herbert Hoover, sono stati già mobilitati e si stanno organizzando per un'eventuale azione armata all'aeroporto JFK. Raffaele, le accuse per lei furono di diserzione e pirateria aerea. Si rese conto che si trattava di un reato per il quale rischiava la sedia elettrica? Io pensavo che comunque l'azione non sarebbe riuscita. A me era solo una protesta, e pensavo di morire in quella protesta, e allora queste cose non mi preoccupavano molto più di tanto. Raffaele, per confondere l'equipaggio, dice che vuole andare al Cairo, in Egitto, ma per farlo occorre un rifornimento e due piloti esperti di volo transoceanico. Le sue richieste vengono accordate, ma quando atterrano al JFK di New York, la pista è piena di agenti travestiti da meccanici. Raffaele li osserva col binocolo, il suo nervosismo esplode. Durante la sosta a New York, lei spara un colpo sul soffitto della prima classe colpendo la saldatura della bombola d'ossigeno. Fu un errore o lo fece perché il comandante stava parlando con la torre di controllo senza sapere cosa si stavano dicendo? Non un errore, ma è stato un incidente. La polizia era dappertutto, non solo in forma di meccaniche, ma era proprio l'FBI armati, che io avevo già osservato, tiratore scelte dappertutto. E allora io ho messo il colpo in canna, perché non avevo il colpo in canna, sono con le armi, non gioco, e mi è partito un colpo. Diciamo che era un momento molto particolare, molto anche nervoso, insomma. A questo punto decide di interrompere le operazioni di rifornimento, facendo entrare due nuovi piloti dopo averli perquisiti, e decide di puntare su Bangor, nel Maine, per completare il rifornimento. Addestrato a sopravvivere nella giungla, Raffaele deve gestire una situazione più grande di lui. A un certo punto è seduto accanto al comandante, che ha lasciato il posto agli altri piloti. Per andare in bagno ripone il fucile, ma il comandante non fa nulla. Al comandante Cook ha chiesto: come mai non hai sparato? Il fucile è carico, io non ho altre armi addosso. Lui ha risposto: io non sono un assassino. Il clima a bordo, tutto sommato, è stato sempre disteso. Come riuscì a convincere l'equipaggio senza ricorrere alla violenza? Guardi, io dal primo momento che sono salito sull'aereo ho detto il mio nome, ho detto il mio grado e sono Marines. E io non ho mai detto che vi sparo e faccio, io dico, ho detto non ho niente da perdere. È stato molto professionale e allora loro hanno capito ed erano delle persone straordinarie, anche il comandante Cook. Dopo un quarto scalo a Shannon in Irlanda, per l'ultimo rifornimento il Boeing raggiunge l'aeroporto di Fiumicino. All'alba del primo novembre è l'ultima fermata. Il Cairo doveva essere un diversivo per confondere i federali, perché Minichiello pensa di non uscirne vivo. Ma se deve morire, almeno prima vuole vedere la sua amata Napoli, nel giorno del suo 20° compleanno. Minichiello, sono trascorse 19 ore dall'inizio del dirottamento. Lei riesce incredibilmente a conservare i nervi saldi. Scende dall'aereo e dopo aver preso in ostaggio il vicequestore Pietro Gulì, in servizio a Fiumicino, entra in una Giulietta parcheggiata sulla pista. A Roma non c'era mai stato. Aveva idea di dove andare in quel momento? Non sapevo dove andare, non c'era niente di pianificato. Ogni cosa avveniva, man mano che avveniva dovevo decidere quello di fare. E comunque, prima di lasciare l'aereo, ho salutato sia la hostess, ho salutato anche il comandante, gli ho chiesto scuse per quello che avevo fatto, per i disturbi che gli avevo recato, però comunque gli ho detto, per me vedrete una bella città, Roma. E l'ho lasciato. Arrivati in una zona di campagna sull'Ardiatina, scende dall'auto, decide di proseguire a piedi. Raffaella non dorma da 3 giorni, a malapena riesce a tenere aperti gli occhi. Intanto la caccia all'uomo prosegue. Gli uomini delle forze dell'ordine setacciano la zona con i cani. Dopo una breve sosta chiede l'autostop a una coppia di anziani che lo portano al santuario del Divino Amore, dove stavano andando per la messa in occasione della ricorrenza dei morti. Entra in chiesa ma viene riconosciuto per colpa del suo strano accento da un sacerdote che parla inglese e che aveva sentito della sua fuga alla radio. Per Minichiello si aprono le porte di Regina Coeli. Non viene chiesta l'estradizione perché l'Italia la negherebbe, visto che negli Stati Uniti vige la pena di morte. Il clamore e l'attenzione dei media di tutto il mondo stordiscono la famiglia di Raffaele giunta a Roma. Comincia la sarabanda di avvocati americani, italiani, interessati più ai riflettori che al caso. Minichiello viene condannato in primo grado a 7 anni e mezzo di carcere, ridotto a 4 anni in appello. 2 anni gli vengono condonati per buona condotta e dopo 18 mesi di carcere è un uomo libero. Poi in carcere sono stato insieme a uno degli amici di Valprede, ho conosciuto anche Valprede. Cioè in carcere hai conosciuto Valprede, anche Walter Chiari e Lello Iottazzi? Esatto. Ma sì, che gli dissero perché erano stati arrestati? Perché Walter Chiari e Iottazzi fu un grande scandalo all'epoca. No, perché io loro passavano tutti i giorni dal reparto dove io sto e lo vedevo, però non conoscendo mi hanno detto, dice, questi sono due attori, due cose. Poi l'ho incontrato dal cappellano che ci ha fatto incontrare. Ma Chiari le disse che Carlo Ponti, il produttore e marito di Sofia Loren, voleva girare un film sulla sua storia. Sì, sì, ma questo l'ha detto. Gliel'ha detto Walter Chiari? Sì, sì, sì, Walter Chiari. They were singing. La storia di Raffaele Minichiello è raccontata nel libro di Pierluigi Vercesi, Il Marin, edito da Mondadori. L'avventura continua domani con il racconto della sua nuova vita dopo il processo, le ingiustizie, la voglia di vendetta e poi la conversione. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, la pubblicità. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Mix 24. La prima volta non si scorda mai. Il primo giorno di scuola, il primo bacio, il primo lavoro. È qualcosa che ci si porta sempre dentro e spesso è un dolce ricordo. Come nel caso della Ferrari e della sua prima vittoria datata 1947 e ottenuta con la 125S. La prima pietra di una storia sportiva senza eguali. Quella della scuderia che vanta il maggior numero di successi nella storia della Formula 1. Con questo spot che percorre 7 decenni, la Ferrari festeggia la sua storia iniziata il 12 marzo del 1947. quando Enzo Ferrari mise in moto la prima vettura a portare il suo nome. Quel 12 marzo un boato sconvolge la campagna di Maranello. La 125, ancora senza carrozzeria, è stata accesa e l'avventura della Ferrari è iniziata. Motore di questo ineguagliato successo è Enzo Ferrari, il creatore della Rossa, un uomo forte e determinato, duro e appassionato, un lavoratore instancabile, capace di cogliere di volta in volta le sfide che il suo tempo gli offriva. È sua l'idea, a metà del 1945, di progettare una macchina del tutto innovativa con lo scopo di battere le Alfa Romeo. È l'inizio di una storia di grande successo che porta negli anni la Ferrari, da piccola fabbrica, a diventare l'emblema del Made in Italy nel mondo. È stato un sogno della gioventù che probabilmente si è parzialmente avverato. Che poi io oggi sia un uomo conosciuto o meno è una cosa che mi riguarda sì, ma molto relativamente, perché io non ho cambiato la mia vita, le mie abitudini e soprattutto il mio amore per la bella meccanica. Enzo Ferrari è dedicata alla puntata dei gialli della storia, come sempre, dopo il giornale radio. Ma intanto abbiamo un vincitore del canzoniere, Massimiliano D'Aiesi. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, e allora cosa ci dice? Che si dice? Si lavora, si cerca di andare avanti. Sì, ma che... hai indovinato il canzoniere? Ma non lo so, io credo che sia la poesia di D'Annunzio, Stringiti a me. Giusto, sì, giusto, bravissimo. E che si fa, Iesi, cosa fai di bello? Faccio il medico del lavoro. Ah, bene, bene. Mi occupo di sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori. Grave problema, eh? Sì, è vero, è vero, è vero. Un po' perché non c'è lavoro, un po' perché tante volte lo si fa in maniera... I rischi sono tanti. Sì. Esatto, esatto, poco appropriata. Auguri, buon lavoro allora. Grazie. Intanto adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA marzo 2017, consigli per un consumo sicuro di pesce. La Food and Drug Administration, l'FDA statunitense, ha pubblicato i consigli per un consumo sicuro di pesce. Il problema è di evitare i pesci con possibile contenuto di mercurio che sono tossici. Consigli che valgono soprattutto per le gravide che allattano e per i bambini, ma che ovviamente poi si estendono a tutti. Sono stati classificati 62 tipi di pesce con una classifica dove ci sono i meglio, i buoni e quelli da evitare. Intanto l'FDA, la Food and Drug Administration, raccomanda 2-3 porzioni alla settimana per le gravide o le donne che allattano e 1-2 porzioni per i bambini a cominciare dai 2 anni, naturalmente che le tasche ce lo permettano. Quali sono i pesci migliori? Gamberi, salmone, tonno in scatola leggero, il cosiddetto light, pesce gatto e merluzzo. I buoni sono la spigola, l'alibut, il tonno pinna gialla. Quelli da evitare, lo squalo, e ovviamente anche se tenete presente che spesso viene spacciato per altro pesce e viene servito anche lo squalo, il pesce spada, peccato perché è così buono, il tonno big eye, il marlin e il maccarello. Quindi fateci caso e cercate evidentemente di andare sui buoni e sui migliori, e invece evitare, ripeto, lo squalo, il pesce spada, il tonno big eye, il marlin e il maccarello, che hanno un sacco di mercurio al loro interno. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto? Oggi una canzone per chi cerca l'unico che può capire, senza ostentazione e senza paura, quello con la faccia che non tradisce, Francesco De Gregori, Spalle larghe. Uomo con le spalle larghe, ecco cosa ci vorrebbe per te, che ti capisca senza farlo capire, e non ti spieghi mai perché, che ti conosca da quando eri piccola, o più da piccolo, immaginava già. Uomo con le spalle larghe, lo sa ben lui come si fa. Lo sa bene lui come si fa. Un uomo con le spalle larghe, la paura non sa nemmeno che è. c'era freddo, alza il bavero, corregge il caffè, può ritornare sporco di rossetto, tanto ha una faccia che non tradisce. Un uomo come ce ne sono tanti, che quando vuole non capisce. Uomo con le spalle larghe, la fortuna non sa nemmeno che ogni sera fa cadere le stelle, ogni mattina le raccoglie con te, e se bastassero le cartoline te ne manderebbe ogni anno, e poi potresti vederlo piangere come gli uomini non fanno. Un uomo che mangia il fuoco e per scaldarti si fa bruciare.